lo annulla la panchina della Juve il gol. Mi deve spiegare chi ha annullato il gol, se è stato Pepe o Giaccherini. Lo voglio spiegato. Sono molto contento e devo ringraziare a tutta la squadra, alla mia famiglia, ai miei amici, a tutti gli sponsor, e già teniamo un altro titolo per la Spagna. Ha perso il Milan, cosa hai pensato? No, non l'ho visto, ho sentito adesso. Ti dico io che ha perso. Problema di loro. Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, anche a Franco Piantanida e a Roberto Scaltritti in regia, che sono già in maschera di Halloween. Allora, il Milan fa pari in qualche modo a Palermo, Allegri cambia mille moduli, alla fine lo salva il solito El Shaarawy. Pare che Berlusconi non l'abbia presa benissimo. Io credo però che non l'abbia presa benissimo anche il presidente del Palermo, che è spesso ospite di questi microfoni, anche se da Giuseppe Cruciani alla Zanzara, e io sono un po' geloso. Presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Senta, grande occasione persa, non credo sia una buona giornata quella di no, oggi. No, no, sicuramente, sicuramente, ma era partita male con l'infortunio di Donati, che ci ha tolto subito un cambio. Poi la squadra si era espressa bene in campo, poi quando abbiamo fatto i cambi abbiamo praticamente un po' scompaginato l'assetto della squadra e hanno avuto paura, e quando la squadra ha paura poi succede quello che succede. Presidente, qual è il rimprovero più grande in questo momento dopo 10 giornate che fa il Palermo? Nessun rimprovero, in questo momento qui mancano solo i punti, perché nelle ultime partite il Palermo meritava la vittoria col Torino, meritava la vittoria a Siena, e forse l'aveva già conquistata ieri sera, ecco, per cui se avessimo questi punti in più saremmo adesso a 14 punti, saremmo fuori. Io penso che il Milan ieri sera ha trovato un Palermo forte, non ha trovato una squadra da quelle posizioni di classifica. E Gasperini la sta mettendo in campo molto bene, sono contentissimo del lavoro che sta facendo, assistito anche dal nostro amministratore, lo Monaco, che gli è vicino in tutti i momenti. Noi sicuramente ci manca qualche punto, ma arriveranno, giocando così arriveranno, perché la squadra andrà su tutti i campi per fare bottino, per vincere. Il Milan ha trovato un buon Palermo o il Palermo ha trovato un buon Milan, secondo lei? Ma ho trovato il solito Milan, che è una squadra organizzata, che manca naturalmente di quei due o tre uomini che aveva l'anno scorso, che fanno la differenza, che risolvono le partite. Quando l'anno scorso risolvevano le partite non è che il Milan giocasse benissimo. Vediamo quest'anno che il Paris Saint Germain, quando danno la palla facile, sì, a Ibra risolve le partite, no? Se avessimo noi uno come Ibra, partite come quelle di ieri la chiudiamo con un bottino molto, molto pesante per gli altri, insomma, ecco. Milan quest'anno non c'ha Ibra, deve fare fronte col gioco. Il Palermo, lo ripeto, il Palermo è una squadra in questo momento ben organizzata, insomma, ecco, la ritengo alla pari con quelle che sono dietro le grandi, alla Fiorentina, alla Lazio, alla Roma, insomma è una squadra organizzata bene. Siamo partiti male, ma adesso siamo 5 partite che non perdiamo e sono contento. Sì, se te le faccio una domanda difficile, lei confermerebbe Allegri? Ma secondo me Allegri è un ottimo allenatore, ripeto, in questo momento qui sta facendo il Milan la rifondazione che stanno facendo tante società. Rifondare una società mancando degli uomini molto importanti, che ha venduto, ha fatto bottino quest'anno il Milan, è come se io dessi la colpa adesso a tutto l'allenatore, però anch'io 2 anni fa ho ceduto Pastore, ho ceduto Cavani, ho ceduto dei giocatori che, se lei si immagini che io l'attacco mio di tre anni fa con Rossi era Cavani, Hernandez e Pastore. Sì. Io penso uno dei migliori attacchi d'Europa, no? Per cui ce li tenevo. È chiaro che quando tu naturalmente Palermo ha certe esigenze di bilancio che il Milan non aveva, adesso il Milan c'è anche lui, quest'anno soffre anche di questo, per cui io direi che è un anno di transizione anche per loro, ma il Milan è un'ottima squadra, lei la mette bene in campo, e non è che tu da puoi tirar fuori il rosolio dal vino ancora acerbo. Sì, però lei mi insegna che quando la società non ci crede più, quando i giocatori non ci credono più, al di là dei meriti di un allenatore, forse è meglio cambiare qualcosa. Ma non lo so, l'ambiente del Milan, io penso che sia più che altro i giornali, i giornalisti che a un certo momento martellano Allegri, che prima era quello che faceva i miracoli, adesso naturalmente io ritengo lei un ottimo allenatore. Io adesso infilo l'elmetto che ho su da tutta la settimana e le faccio l'ultima domanda. È stata una domenica di disgrazie arbitrali. Io non le chiedo di Moviola o mica Moviola, le chiedo solo come valuta questo esperimento dell'arbitro di fondo campo. Ma è un esperimento che ritengo folle, nel senso che almeno la palla quando supera la linea di porta è facilissimo mettere due sensori e naturalmente non vai a stravolgere il gioco, è gol o non è gol. È una pervicacia nel dire di no a queste cose qui che va lì fuori da ogni ragionamento. Poi io vedo un'altra cosa molto molto deleteria, secondo me. L'arbitro deve essere più indipendente. Da quando gli hanno messo il microfono ai guardialine e all'arbitro, quello di fondo, lei si immagini l'arbitro che sta ragionando con se stesso e dice: ma è rigore o non è rigore? E gli arriva una voce che del sottofondo che dice: è rigore. E quello è l'istinto, lui fischia, una volta che ha fischiato come fa a tornare indietro. Io dico che se fossi io, mantenendo le vecchie regole, tirerei via i giudici di fondo linea e tirerei via anche il microfono che sarei solo la bandierina al segnaline. Sì, e quando era la bandierina l'arbitro alza gli occhi e vede se il segnaline gli segnala qualcosa e se vuole lo ascolta e se vuole no. Altrimenti così gli arbitri sono condizionati. Sì, perché quando gli arriva una voce nel microfono al suo altoparlante nell'orecchio, non ha il tempo per pensare, viene condizionato ed è un male, secondo me. Poi c'è un altro problema che ho visto a Catania, è che c'è questo rapporto, si parla di sudditanza psicologica, se ne è inserita un'altra, cioè quella tra magari il giudice di fondo campo, mettiamo Rizzoli, e un arbitro un po' meno esperto. Sì, però io mi ricordo sempre quando hanno buttato fuori giustamente Zidane, mi sembra, in un campionato europeo del mondo con l'Italia, no? Sì. C'è stato sicuramente un quarto uomo sugli spalti o in una sala di regia dove naturalmente c'era uno che diceva e gli ha detto a quell'altro: guarda che questo gli ha dato una testata. Sì. No, perché non aveva visto l'arbitro in diretta, nessuno in diretta, è arrivato da lì. Allora io mi immaginerei almeno che per le cose più eclatanti ci fosse all'interno dello stanzino dell'arbitro, davanti a un monitor, il quarto uomo che invece di stare lì vada là. E per le cose eclatanti, siccome in 5 secondi si vede una cosa eclatante, almeno su quella intervenga. No, su quella eclatante di Catania, ma vai a vedere la ripetizione tu dietro 2 secondi e dici: guarda che è gol regolare, stop. No, non occorre 45 secondi di conciliavolo, bastava 10 secondi a guardare il video, non le sembra? Sì, io sono... Non occorre fermare le azioni, cose difficili. No, ma cioè, poi bisogna capire quali sono le cose difficili, bisogna capire quante volte si può fare. Impariamo dal football americano, mi sembra che lo facciano 2 o 3 volte durante la partita, no, al massimo, sì, mi sembra 2 o 3. Sì. Ecco, per cui voglio dire, se tanti sport hanno fatto, che sono sport che creano spettacolo, queste regole, io mi ricordo quando ero bambino che l'atletica leggera erano addirittura i cronometristi che sbagliavano a favore dei giocatori di casa, dei corridori di casa, no? Certo. Per cui le facevano di tutti i colori, e ancora adesso in quelle discipline dove c'è una giuria vediamo i tuffi, sì, vediamo queste cose qui, ne combinano di tutti i colori, no? Mille polemiche. Io però continuo a domandarmi, Presidente, perché solo in Italia abbiamo questa angoscia, perché all'estero io non la vedo. Abbiamo la pressione giornalistica che in Italia è folle, ma almeno quella ci aiuta a allontanare i dispiaceri che vengono dalla nostra amministrazione statale, dalla nostra situazione. È vero che abbiamo una pressione giornalistica folle sul calcio, ma ci allontana almeno dai cattivi pensieri, no? È meglio incazzarsi per un gol dato o non dato che per chi ci rovina la vita tutti i giorni e non ci amministra bene. Tutti convocati anche domani, che è festa, e dopodomani, io sono qui, non faccio festa, vi aspetto al microfono in diretta 800 24 00 24, il numero verde. Poi, visto che è Halloween, proveremo più tardi a fare anche una carrellata degli orrori delle prime 9 giornate di campionato. Parleremo del basket NBA che è partito, pur in un'America in gravi difficoltà per ben altri motivi. Certo che la rimonta del Milan non è nulla, dallo 2-0 al 2-2, in confronto a ciò che è successo ieri in Inghilterra, in Coppa di Lega, con l'Arsenal, che perdeva 4-0 contro il Reading, terz'ultimo in Premier League, ebbene ha vinto 7-5. Pensate un po' che partita. Ruggero da Modena, primo convocato di oggi, buongiorno. Buongiorno. Poi la porto in sala stampa, per... Prego. No, dico, poi la porto, lei e tutti gli altri ascoltatori, in sala stampa per sapere cosa hanno detto gli allenatori prima delle partite di stasera. Dica, Ruggero. Salve, allora, io sono un arbitro di calcio da ormai da 15 anni. Sì. E volevo parlare del fuorigioco, perché è una cosa impensabile inserire la moviola in campo, anche perché non andrebbe sicuramente a risolvere tutti i problemi che oggi noi abbiamo. Vi faccio un esempio: se noi abbiamo una posizione di un calciatore in posizione di fuorigioco, sì, e l'arbitro non fischia, noi lo vediamo in moviola, c'è un fuorigioco, l'arbitro prende, fischia e blocca tutta l'azione. Caso contrario, se invece c'è questo passaggio e il calciatore in posizione di fuorigioco, l'arbitro, cioè non è in posizione di fuorigioco, l'arbitro fischia il fuorigioco, ma noi vediamo in moviola e non è fuorigioco, come facciamo noi a riprendere l'azione? No, ma guardi, Ruggero, lei con me sfonda una porta aperta, può portarmi tutte le argomentazioni che vuole, io rimango contrario all'uso di questo tipo di tecnologia. L'unica tecnologia che vorrei vedere in campo è quella sulla linea di porta, che verrà sperimentata e che io penso vedremo ai mondiali. Anche lì sarà un grande business, sarà un affare commerciale, saranno soldi che finiranno in chissà quante tasche. Però questo è un altro discorso ed è un'altra storia. Piuttosto l'esperimento dell'arbitro di fondo campo, secondo me, ha creato molto più casino che vantaggi. Milan, glielo dico anche un'altra cosa, anche perché dopo andremo a finire che faremo la moviola moviolista. La moviola moviolista, è certo. E chi va a controllare il moviolista? E chi va a controllare il sito internet del moviolista? È certo, e poi c'è il responsabile della moviola. Ma chi si fida di chi fa la moviola? E questa è un'altra storia, mio caro Ruggero. Continui ad arbitrare, in bocca al lupo. Adesso però vi porto in conferenza stampa prepartita. Questa sera c'è il turno infrasettimanale, ci sono tutte le altre gare. Mister, fai una prova di... prova un distrutto. È pronto il microfono? Si sente? Se non funziona, annullata la conferenza. Funziona il microfono? Il microfono di Allegri, quello lì, non funzionava quel giorno a Milanello. Però io ad Allegri voglio chiedere che diavolo di formazione ha schierato ieri sera a Palermo all'inizio, cambiandola poi altre due volte. Sono partito con quel sistema di gioco anche perché ho bisogno di far recuperare un po' Emanuelson, e poi sinceramente ho la testa di fare queste tre sostituzioni. Ho preparato la partita nella mia testa, credevo che con quel sistema di gioco lì si potesse rischiare meno nel primo tempo, visto una partita a distanza di 3 giorni, magari i ritmi del secondo tempo calavano un po' e noi con 3 innestri di qualità e di tecnica potevamo creare dei pericoli. Non ci ho acchiappato perché al 47esimo perdevamo 2-0. No, non ci ha acchiappato, caro Allegri, la motivazione secondo me non sta in piedi, ma neanche secondo Berlusconi, che pare imbufalito. Andiamo invece ad Appiano Gentile, perché io sono sicuro che Stramaccioni pensa che ci sia un complotto pro Juventus, è vero mister? Sicuramente a Catania sono stati commessi degli errori, io sono convinto che sono stati commessi in buona fede e che è stato solamente un episodio. Io credo che quello che può suscitare magari una potenziale lamentela o polemica è se chi osserva può notare che l'errore è ripetuto in una direzione, ma secondo me nel campionato di Serie A, almeno finora, io questa cosa non l'ho ravvisata. Questo è il rumore del naso di Stramaccioni che si allunga. Intanto stasera avrà una Sampdoria in difficoltà, in grave difficoltà da battere. Ma Zeman davvero con quella squadra e con questo tipo di continuità, di discontinuità folle, crede nel terzo posto? Vabbè che mancano quei 7 punti per colpa degli arbitri, ma il terzo posto, che pure la Roma dal punto di vista dell'organico meriterebbe ampiamente. Ma ci crede Zeman? Sì, me la sento, ripeto, anche le prestazioni, anche se no per 90 minuti, mi dimostrano che questa squadra quando vuole può giocare con tutti. Te l'ha dimostrato finora sul campo sempre, tranne che a Torino. E infine Ciro Ferrara, che questa sera si proverà con l'Inter, momento molto delicato per la Sampdoria. Nelle prime giornate sembrava un mago, ma adesso forse scopriamo che quello era solo un travestimento da Harry Potter. Ferrara? Visto che io ci sto lavorando da 3 mesi con questi ragazzi, non è che improvvisamente ho la bacchetta magica poi per, o in un giorno, per cambiare le cose. Prima di sparare delle c***e, che uno rifletta, insomma. Io vedo che la squadra sta dando tutto, non devono assolutamente abbattersi. Vediamo se non sarà l'Inter ad abbattere la Sampdoria questa sera, anche perché sabato sera va a Torino a giocarsi quella che vedrete verrà definita da tutti partita scudetto, il che ai primi di novembre fa molto ridere. Allora adesso io vorrei fare un po' di schedine, invece vorrei fare un po' di pronostici, e non c'è personaggio migliore se non il mio preferito dalla SNAI, Adam Grapes. Ciao Adam, grazie. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti, buon Halloween mi sa, dovevo dire. Sono appena andato al supermercato a comprare le dolcette per stasera, se qualcuno bussa, ma il pericolo è che mangerò tutto prima che i bambini inizino di bussare, quindi non avrò niente quando bussano. Questa è la sfida di stasera, diciamo. Ti fai fuori tutto tu, eh? Sì, le quote che mangiano tutto è 1,30, diciamo. Senti, chissà se c'è qualcuno che ha scommesso sulla vittoria dell'Arsenal ieri sera, che perdeva 4-0 con Reading. Sì, era incredibile, sono riuscito a vedere un po' della partita sui canali inglesi, e all'intervallo la curva ospiti era mezzo vuoto con tanti tifosi che sono andati via, quindi magari sono arrivati a casa un paio di ore dopo e magari la moglie o il marito per i tifosi femminili dice: ah, che bella partita, ma che dici, abbiamo perso 4-0. una partita incredibile. Senti, qualche partita interessante di oggi, qualche quota interessante di oggi. Vedo l'Inter strafavorita per voi 1,45 con la Sampdoria, la Juventus vabbè 1,25 con il Bologna, che però l'anno scorso pareggiò al Delle Alpi. Infatti questo era anche un turno in settimana della scorsa stagione, quando Bologna ha strappato il pareggio, quindi per chi crede nella storia che magari forse il turnover della Juventus potrebbe avere un effetto e Bologna riesce a strappare un altro pareggio, la quota è 5,50, mentre il colpaccio rosso-blu è quotato a 11. Ovviamente la maggioranza delle scommesse qui sono colorati bianco-neri, e il 1,25 della Juventus è la base per tanti schedini di stasera, mentre la quota di Inter è un pochino più alto, è 1,45 con il pareggio 4 e Sampdoria 7,50. Le due squadre, gli antipasti prima del derby di Italia di sabato prossimo. Senti, dai qualche consiglio ai nostri ascoltatori, tu che quote interessanti vedi? Magari, non so, noi teniamo tanto conto delle notizie della formazione, e con l'assenza di Cavani stasera a Bergamo, magari un tentativo sull'Atalanta a 3,35, che Atalanta è un po' erratico in casa, che ogni tanto vince, ogni tanto perde male, come ha fatto alcune settimane fa contro il Torino, 5-1, ma per chi piace giocare le quote un po' più alte, magari un tentativo su Atlanta 3-35, di prendere vantaggio di queste assenze nei squadre partenopeo. Noto, Adam, che la cosa più difficile in assoluto è quotare la Roma. Col Parma 2,70 per il Parma, 4 per il pareggio, 2,20 per la Roma, ma credo che fare le quote della Roma sia una roba da mal di testa. Sì, perché cominciamo con il base, che il rapporto tra la Roma e i pareggi, come il rapporto tra io e la palestra, viene ogni tanto, ma è una cosa molto casuale. Quindi cominciamo con un pareggio alto, e da questo punto abbiamo in conseguenza Roma favorito a 2,20 con Parma a 2,70, ma occhio a Parma, che ha vinto le ultime due in trasferta. Sì. No, le ultime due, uno in trasferta e uno in casa. Sì. Poi c'è anche il crollo della Roma negli ultimi minuti contro l'Udinese, che magari ancora può avere un effetto. Poi sento voci nel fondo che stiamo a passare la quota di Parma, quindi questo è un cambio quasi in tempo reale che posso raccontare a voi. Attenzione. Senti Adam, l'ultima cosa che ti chiedo, tu sì, te ne intendi, che sei un golosone, Allegri il panettone lo mangia oppure no? Dovessi scommettere? non voglio più fare nessun allenatore, quindi lo mangerà sicuramente, ma chissà se sarà a Milanello o al suo Livorno, dove vive, quindi se è a Livorno mi può fare compagnia, perché siamo a Lucri, che non è lontanissimo, quindi potremo magari mangiare insieme. Adam, ti ringrazio. Grazie a voi, in bocca alle buone tutti. Ciao, a presto. Ciao. Un abbraccio ad Adam Grapes e anche a Marco da Brescia, altro convocato, 800240024, numero verde. Signor Getta, buongiorno. Signor Marco, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, volevo riprendere un po' lì la discussione della moviola, no? Perché appunto sembra abbastanza complicato vedere se porti dei vantaggi o più complicazioni che altro la moviola in campo. E allora così anche a livello di battuta, però, ma non potremmo eliminarla dal post partita? In modo che almeno la decisione dell'arbitro è quella di quel momento, fatta in quel momento e basta. Ma tutti vanno a casa consapevoli che era fuori gioco. Come facciamo? Per decreto legge? No, non per decreto legge, basta, però ripeto, è inutile poi scandalizzarsi delle polemiche se in qualche modo poi alla sera settimana ti ripropinano il gol che era dentro di un metro. Io sono uno che quando ero piccolo ho sempre guardato il calcio e la domenica sportiva, quando c'era la moviola di Carlo Sassi andavo a dormire, perché è una cosa che mi interessa davvero poco, è chiaro che non la si può eliminare per legge o per decreto o per sanzione o per decisione del giudice sportivo. Purtroppo esiste, il problema vero è che avvertiamo questa tremenda esigenza di certezza del diritto soltanto in Italia, mentre il calcio, sarò l'unico al mondo, ma a me piace imperfetto. Allora, la fiera degli orrori delle prime 9 di campionato, visto che è Halloween, poi vi faremo sentire le nostre scelte, ma intanto leggiamo quelle degli ascoltatori su Twitter. I cori contro Morosini, la distruzione del settore ospiti da parte degli ultra del Napoli, secondo Gianmarco. Marco, la fase difensiva della Roma dal titolo zombie in difesa, in Milan in generale dal titolo Allegri è morto il diavolo. Oppure Gius fa sempre su Twitter, Costant nel 3-4-3 di Malaga-Milan. Questi secondo voi gli orrori di questo inizio di stagione? Iniziata però nella notte la stagione NBA, allora saluto e ringrazio mio amico Alessandro Mamoli da Sky. Ciao Alessandro. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. E subito sorpresone con i Los Angeles Lakers battuti 99-91 da Dallas, che pure non è la squadra degli ultimi arrivati, però leggi il roster dei Lakers e dici questi non devono perdere neanche una partita. Non sarà così? No, secondo me non sarà così, per quanto mi riguarda, pur con i Dallas Mavericks senza Nowitzki e Chris Kaman, non è una sorpresa, ma non è che non lo dico per fare l'esperto che ci ha visto lungo, semplicemente perché siamo all'inizio della stagione, perché i Lakers comunque arrivavano da uno 0-8 in pre-season e perché far giocare 4-5 giocatori con quelle caratteristiche insieme è piuttosto complicato. Io ho qualche dubbio che ci riescano anche tra un po' e glielo auguro. Così, se devo farti un pronostico, ti dico che cambia l'allenatore tra un po', sì, a seconda dell'allenatore che viene, magari anche qualche giocatore e il modo di giocare, però sì, è talmente complicato che adesso non è che possiamo, dopo la prima sconfitta, fare il processo e dire vediamo, diamogli un minimo di tempo e vediamo. Il problema più preoccupante credo si chiami Steve Nash. Sì, perché? Perché, per dirti, lui ieri stanotte, per la prima volta nella sua carriera, ha chiuso una partita giocando almeno 20 minuti sotto i 10 punti e sotto i 5 assist. E se ti chiami Steve Nash, secondo me lui ha sempre giocato nella sua carriera in un modo. Allora, o ti sforzi veramente di provare a farlo giocare in un altro modo, però diventa un playmaker normale. Certo. E mi sembra stupido poi giustificare il motivo, o comunque saresti in difficoltà a giustificare il motivo per cui l'hai preso, oppure provi a cambiare il modo di giocare. Io non penso che Mike Brown si metta a giocare correndo, e questo è il motivo per cui penso che o funzionano con Nash che fa 10 punti e 5 assist e quindi vanno avanti così, o devono cambiare il modo di giocare e di conseguenza l'allenatore. Certo. No, ribadisco, è questo. Chiaro. Ha ragione Flavio Tranquillo quando dice Miami sarà la squadra che partirà più forte in questa stagione sull'onda lunga della dell'anello appena vinto. Boston 107, Miami 120. Sì, sono d'accordo, nel senso che per due motivi, perché sono la squadra che ha cambiato meno e ha cambiato forse in meglio quello che ha cambiato, nel senso che i due pezzi poi fondamentali, stiamo parlando di Allen e Lewis, da inserire, sono facili da inserire, perché sono giocatori che in quel sistema devono prendere la palla e segnare sugli scarichi. Poi Allen ha anche inventato qualcosa di suo nella partita di stanotte, ma soprattutto perché, a differenza dell'anno scorso dove hanno passato diversi mesi a cercare di capire come giocare, adesso Spurs mi sembra che sia abbastanza rassegnato, ma è un rassegnato positivo, sì, a giocare in quella maniera lì, per cui posta 5, 4 giocatori sul perimetro con LeBron James, che a quel punto diventa illegale. Fa sorridere perché è la pallacanestro che giocava D'Antoni nel 2004 con i Phoenix Suns, ed è lo stesso D'Antoni che, se senti i tifosi dei Knicks o molti dei tifosi dei Knicks, criticano. Però strano che gli Spurs giochino così e che oggi i Miami Heat giochino così, e sono comunque sistemi vincenti, magari con interpreti diversi, e ottieni dei risultati diversi. Un'ultima cosa, Ale, perfino mio figlio, che non ha ancora il permesso di stare sveglio per vedere le partite di NBA, credo come il tuo, ieri mi ha chiesto: sì, ma come mai Oklahoma ha mandato via quel signore con la barba? È stato molto difficile spiegarglielo. Perché puoi dirgli che quel signore con la barba voleva molti soldi e Oklahoma City non voleva dargli così tanti soldi, e quindi, siccome entro il 31 ottobre avrebbero dovuto esercitare, diciamo, la clausola per cui, se volevano tenere Harden, doveva rifirmarlo entro il 31 dandogli i soldi che voleva, hanno pensato di scambiarlo appena prima del 31 per avere qualcosa in cambio, che sembra un buon qualcosa, però anche lì io aspetterei a giudicare tutto. Harden come superstar ai Rockets, che probabilmente funzionerà, e gli Oklahoma City Thunder senza Harden più deboli, magari sì, ma anche no, diamogli tempo, cioè non puoi dopo uno scambio senza aver visto un minuto dire: ecco, adesso non vanno più in finale perché non hanno più Harden. Sicuro. Magari invece vincono perché sono più equilibrati, chi lo sa. Grazie Alessandro. A voi. Lavoro. Grazie ad Alessandro Mamoli, con cui abbiamo fatto due chiacchiere dell'NBA che è partita stanotte, mentre curiosamente vedevo le immagini in TV dei danni che ha fatto l'uragano negli Stati Uniti. Torniamo agli ascoltatori convocatissimi. Elvio da Milano, buongiorno. Buongiorno dottore. Dottore, complimenti per la trasmissione. Dottore, sarà lei, dica. No, sentito innanzitutto la bella analisi che ha fatto sul basket americano l'ospite. Sì. Volevo chiedere una cosa, dottore: cosa ne pensa del momento dell'Armani? La mia impressione è che siano forti singolarmente, ma non siano squadra. Lei cosa ne pensa? Beh, che è così, ed è curioso che sia così, perché comunque l'Armani ha confermato l'ossatura dell'anno scorso e si è notevolmente rinforzata, perché Langford è un signor giocatore, perché Hendrix è un buon giocatore, perché Stipcevic può essere un buon cambio del playmaker. Insomma, è una squadra completa. Mi sorprende questo avvio di campionato così simile rispetto a quello dell'anno scorso. Continuo a pensare che il problema stia nel manico, non ovviamente in chi sta seduto in panchina, ma in chi dirige la squadra in campo. A me Omar Cook continua a non sembrare un leader, il leader di cui Milano avrebbe bisogno. Ennio da Modena. Buongiorno. Buongiorno. Grazie dell'opportunità. Io volevo ritornare sulla moviola, non me ne voglia. Solo una cosa. Io credo che il discorso della moviola, penso che sia un diritto di scelta dei giocatori. È una lama a doppio taglio, ma penso che sarà la cosa più opportuna. E in più volevo dire, ascolto poi la risposta per telefono. Mi ripete la domanda, dire, che non l'ho sentita benissimo? Sì. La moviola? Per me la moviola, se bisogna mettere la moviola in campo, se c'è necessità, per me è una scelta dei giocatori. Sì, no, per me fare un sondaggio tra virgolette non può essere, no, non può essere una scelta non può essere una scelta dei giocatori, e non vedo perché debba per forza andare la moviola in campo, ma non può essere certo una scelta dei giocatori, e aggiungo, non può essere una scelta nemmeno degli organi che dirigono il calcio italiano, perché deve essere una scelta condivisa a livello mondiale. E ripeto, perché non vedremo mai la moviola in campo? Perché non possiamo, punto primo, fare da soli, deciderlo da soli e adottare da soli questo tipo di espediente. secondo perché all'estero di avere la moviola in campo gliene importa davvero pochissimo. Tanto c'è anche il nostro amico Fabrizio Ferrari che ci scrive su Twitter: sento parlare di campioncini in erba, ma l'unico vero giovane fenomeno è Verratti, aggiungerei l'esplosione di El Shaarawy, che di anni ne ha compiuti 20 sabato, caro Fabrizio. Alberto da Milano. Io non sono un tifoso sfegatato, quindi magari sono meno coinvolto emotivamente se dico delle cose imprecise, mi ammonesca. Però faccio un po' un intervento a gamba tesa. La moviola in campo va bene, ma visto che poi si passano ore e ore di TV e il lunedì e il martedì a polemizzare con esperti di calcio che dicono la loro, che lei... Io Alberto adesso non la sento più, però basta cambiare canale, quindi non c'è problema, si passano ore e ore, basta cambiare canale. Oscar da Padova. Ma volevo fare una provocazione, signor Genta. Oh, finalmente, dica. Doping. Allora, i motociclisti quando cadono si fratturano, si rompono, poi li mettono un po' a posto e gli fanno delle punture per poter correre, quindi non è doping. No, direi di no, Oscar. Perché? Io dico di sì, invece, perché è morfina. Mi scusi, Oscar, io non so cosa iniettano ai piloti, non credo che iniettino morfina, non credo proprio. Inietteranno certamente degli antidolorifici come capita in tutti gli sport del mondo, antidolorifici che non fanno certamente bene, però non possono essere sicuramente fatti rientrare nella categoria del doping. Quanti giocatori di calcio, di basket, di tutti gli sport che vuole vanno in campo spesso in perfette condizioni fisiche grazie all'intervento del dottore e alla punturina magica che doping non è. Mi hanno portato un'agenzia che è questa, la leggo con voi. Trenitalia rimborserà il 25% del costo del biglietto ai passeggeri del Frecciarossa 95-44 partito martedì 30 ottobre da Napoli alle 14.50, è arrivato a Milano Centrale con 40 minuti di ritardo. Secondo i passeggeri soltanto 19 minuti di ritardo secondo l'azienda. Problemi elettrici sulla linea? Danni da maltempo? Panne da furto di rame? Ma che? Semplicemente il treno veloce aveva deviato dalla linea TAV per fermarsi a Parma, uno stop normalmente non previsto negli orari ufficiali, a depositare sul marciapiede della stazione i giocatori della Roma in trasferta per la partita di mercoledì contro la formazione locale. Lasciati Totti, Osvaldo, De Rossi e compagnia della cittadina emiliana, il Frecciarossa è ripartito alla volta della Lombardia, quindi fermata su richiesta col pulsantino come si usava una volta sui pullman. Adesso è Halloween, la notte delle streghe, ma anche la fiera degli orrori, secondo noi, delle prime 9 giornate di campionato. Sentiamo tutto il peggio. Dramé per Di Michele che si gira, ancora Di Michele, prova la conclusione, Romero non la prende! Di Michele! Opera di Romero! Di Michele riporta il chiave in vantaggio! Un virus che è entrato nel terreno, vorrei eliminare l'idea che qualcuno avesse voluto fare un attentato inserendo una erba invasiva per uccidere la precedente. Io credo che sia dovuto proprio a questo effetto serra di grandi temperature e a questo virus che insieme non hanno certo contribuito a far sì che San Paolo fosse perfetto. Va Marchese al cross, Spolli prolunga, palo e poi gol di Bergesio. Attenzione perché parlano Rizzoli, Gervasoni e il guardalino Maggiani. Annullato il gol del Catania. Attenzione, primo tocco, dopo ce n'è un altro, tocca Lodi, è comunque regolare. È la morte del calcio, perché non era mai accaduto che la panchina annullasse un gol. Oggi a Catania per la prima volta abbiamo assistito a questo. Che cosa si può fare effettivamente ora? Un cazzo, una minchia. Si può fare una minchia. Detta proprio in... Perfetto. Non si può fare nulla. Il gruppo è fantastico, mi stanno mettendo a loro agio. e io son veramente contento adesso. Mette qualcosa per entusiasmare un po' i tifosi, signor Gagliani? Sì, uno spogliarello di fedele. Ancora Vidal, lancio in avanti di Vidal, Matri è solo, Matri, e il gol. Mamma mia. Qui è un massacro. Matri non ha chiaramente mai segnato, si è trovato solo davanti al portiere. 3-0, gol di Matri dopo 18 minuti. Mamma mia. Provvedimenti sicuramente, ripeto, siamo in contatto continuo con le questure di Livorno e la questura di Verona per cercare di trovare i veri artefici. Io credo che vadano scovati e vanno trovati, quindi ripeto, stanno lavorando per trovare le facce di queste persone qua. Quello che è davvero accaduto nella serata di mercoledì vede già dei sorrisi eloquenti al Centro Sportivo Vismara di Milano. Mister Allegri. Non è assolutamente successo niente, perché con Pippo non c'è assolutamente problema. C'è stato uno scambio di un minuto neanche di opinioni, ma senza nessuna offesa, senza nessun scambio di parole pesanti, come è stato scritto e detto. Sì, no, mi ha detto bene il mister, penso ci sia poco da dire, anche perché insomma è durato un minuto e c'erano i ragazzi non si sono veramente accorti nulla perché non è successo niente. Allora, queste le nostre scelte, la papera di Romero, quell'erba impossibile del San Paolo, poi ovviamente tutto il casino di Catania con Maggiani e Pulvirenti e poi l'italiano di Cassano e poi Gagliani che chiede lo spogliarello di Furio Fedele, questa mi sembra la più agghiacciante, poi c'è Zampa che a momenti muore sul microfono al quarto gol della Juventus, ovviamente i cori di Morosini, questa è una vicenda, è la peggiore certamente ed è certamente la più seria, e poi quella pantomima Allegri-Inzaghi. Se vi viene in mente qualcos'altro, siamo qui apposta, scriveteci, contattateci, scrivete su Twitter, telefonateci, tanto siete convocati sempre. 800 24 00 24. Alessandro Monza, buonasera. Buonasera. Esordisco chiedendole scusa perché l'anno scorso, dopo 7 vittorie dell'Inter consecutive, lei disse che l'Inter non sarebbe mai arrivata da nessuna parte, o comunque essendo io interista non ci avrei mai creduto, e quindi chiedo scusa per questo, per averla e a questo punto vorrei sapere cosa ne pensa invece dell'Inter di quest'anno. Bene. Dell'Inter di quest'anno credo che insomma voglio dare credito all'Inter, almeno se vince stasera, almeno fino a sabato sera. La vedo una squadra in crescita, una squadra molto forte fisicamente, che ha trovato una sua ragione di essere, che prende adesso sì pochi gol, che riesce con i tre davanti a farne. Secondo me è la candidata principale al secondo posto, continuo a vedere favorita la Juventus, qualunque cosa succeda tra stasera e sabato sera, però l'Inter mi sembra qualcosa di serio, mi sembra un progetto vero, non come quello del Milan, mi sembra un avvio di fase di ricostruzione seria. Giuseppe da Firenze, poi mi danno dell'interista, ma mi becco anche dello Juventino, del Romanista, sì. le ho prese tutte. Giuseppe, buonasera. Da Firenze. Salve, buonasera, tanto piacere di parlare con lei. Reciproco. Io volevo dire a riguardo di Catania, va bene? Sì. Dunque, la Juve ha vinto la partita, ma mi piacerebbe che ci fosse una giustizia sportiva, che 5-6 giocatori che erano intorno all'arbitro venissero squalificati almeno per una giornata. Sarebbe già un'idea per fare smettere questa gente di andare a reclamare davanti a segnalini, davanti all'arbitro, anche perché il professionismo lì ce n'è poco. Mi sembra di vedere questi giocatori che si vedono in... Sì, Giuseppe, il giudice sportivo non può farlo, l'arbitro però può tirare fuori i cartellini ed è quello che doveva fare in tutto quel disastro che si è venuto a creare in quei minuti. l'arbitro lì non doveva risparmiare nessuno, ma era un arbitro chiaramente in confusione, non doveva risparmiare nessuno e doveva estrarre selvaggiamente dei cartellini come è scritto nel regolamento. Quindi il giudice sportivo non lo può fare, l'arbitro lo doveva fare, quindi la risposta non può che essere questa. Renato da Salerno, e poi aggiorniamo la seduta a domani, 1° novembre. Renato. Ciao, buonasera. Ciao. Senta, io volevo parlare, anzi sono d'accordo con quello che ha detto l'interlocutore di prima. Sì. Sul fatto che la prova televisiva potrebbe essere utilizzata, ma soprattutto per evitare queste proteste che sono effettivamente troppo evidenti. Non è previsto. Lo so che non è previsto, potrebbe essere previsto, è giusto una proposta, quindi mi associo. Però io volevo parlare io torno a ripetere, gli arbitri hanno uno strumento immediato, sono i cartellini gialli e rossi. Dal punto di vista delle proteste ci vorrebbe molta minor tolleranza, su questo non ho dubbi. Sono pienamente troppo permissivi verso le proteste, e tocca agli arbitri, non al giudice sportivo. Dica. Certo. E sono d'accordo con lei su questo aspetto. Poi per quanto riguarda invece proprio la gestione della partita e quindi degli arbitri, io penso che, chiaro, sono chiaramente non d'accordo sull'inserimento della moviola in campo, che avrebbe troppe problematiche, e quindi anche su questo concordo con quanto ho sentito sempre esprimere da lei. Però l'idea del doppio arbitro in campo con pari possibilità dei due arbitri, più o meno la basket, no? So che c'è stato un esperimento in Spagna nel passato. C'è stato un esperimento anche in Coppa Italia da noi qualche anno fa, rispedito al mittente. Però secondo me troppo presto archiviato. Sì, troppo presto archiviato. Secondo me io propendo per la terna arbitrale e per il sensore lungo la linea di porta. Questa secondo me è e resta la soluzione migliore. Ci fermiamo qui, ma torniamo domani, anche se è festa. Noi siamo qui in diretta e vi aspetto, quindi, perché non potrete mica lasciarci soli. Franco Piantanelli in redazione, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. Ma se uno mantiene sempre lo stesso profilo, il famoso passo da montagna, non deve né correre né andare piano, sempre lo stesso passo.